I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Deborah Rosciani. Grecia, Ucraina e banche in un copione che si ripete. Ecco i temi che hanno condizionato l'andamento dei mercati finanziari la scorsa settimana e che osserveremo anche nei prossimi giorni. Ma da oggi forse anche la miccia libica potrà avere un peso. Per la Grecia oggi appuntamento con l'Eurogruppo per un nuovo round di trattative sulla rinegoziazione del debito dopo l'incontro straordinario di mercoledì, da cui sono emersi margini di manovra sul dossier greco, sebbene molte posizioni siano ancora distanti. Intanto però la borsa greca ha tirato un sospiro di sollievo dopo che la Banca Centrale Europea ha ampliato la disponibilità finanziaria da garantire alle banche di quel paese. L'accordo per il cessate il fuoco in Ucraina ha incoraggiato tutti gli altri mercati che hanno concluso una settimana positivamente. Segnali tecnici di rilievo sono arrivati da Wall Street, dove il Dow Jones è tornato sopra i 18.000 punti e nuovi record sono stati segnati anche dallo Standard & Poor's. In Italia massima attenzione sui titoli delle banche dopo che la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sui movimenti al rialzo dei titoli delle banche popolari, rialzi che sono stati verificati prima del varo della riforma Renzi. I titoli si sono totalmente disinteressati alla inchiesta, così come alle segnalazioni Consob, hanno continuato a muoversi al rialzo. Riflettori puntati su Monte dei Paschi, che ha comunicato nel 2014 perdite record, un aumento di capitale da almeno 3 miliardi, l'impossibilità di pagare i Monti Bond, quindi la banca sarà costretta a pagare in azioni e lo Stato arriverà al 10% nel capitale della banca. Uno sguardo agli appuntamenti della settimana. Oggi i mercati americani chiusi per il President Day, dal 19 febbraio fino al 25 chiusura del mercato cinese per il capodanno cinese, la Banca Centrale Europea inizia a pubblicare i verbali della riunione dello scorso 22 giugno, la riunione che ha varato il quantitative easing. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. È un dato che fa impressione e che preoccupa, quello sui fallimenti delle imprese diffuso oggi dall'osservatorio Cerved. Dal 2008 al 2014 sono fallite complessivamente 82.000 imprese ed è stato perso ben 1 milione di posti di lavoro. Il segno evidente che la crisi ha davvero colpito duro e che i segnali di ottimismo che qua e là vediamo in questo primo scorcio di 2015 hanno bisogno di trovare ulteriori e più solide conferme. L'anno che ci siamo lasciati alle spalle porta invece un nuovo record di aziende italiane fallite, con oltre 15.000 chiusure, il dato peggiore di sempre per 11 delle 20 regioni italiane, con la Lombardia a guidare la classifica in termini di perdita occupazionale. A livello di settori, l'incremento dei fallimenti si lega in particolare alle dinamiche negative nel settore del terziario e delle costruzioni. Al contrario, nell'industria i fallimenti si attestano sui livelli dello scorso anno. Complessivamente, in base agli archivi CERVE, nel 2014 si contano 104.000 chiusure di aziende tra fallimenti, procedure concorsuali non fallimentari e liquidazioni volontarie. È un dato migliore rispetto a quello del 2013 ed è proprio l'insieme di questi dati sulle chiusure 2014 a consentire qualche piccolo ottimismo. Sono diminuite le procedure concorsuali non fallimentari e in più lo scorso anno, per la prima volta dal 2010, è stata registrata una riduzione delle chiusure volontarie di imprese, segno che per molte aziende le cose cominciano ad andare meno peggio rispetto agli ultimi anni. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.